Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 12 novembre, il sole in regione sorto alle 7.03 e tramonterà alle 16.39. Domani c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. Seconda puntata dedicata all'orto nel vortice del cambiamento climatico che permette anche qui da noi di coltivare piante tanto interessanti quanto finora misconosciute. San Martino, l'11 novembre, era una data strategica per la gente dei campi, in quanto segnava un cambio di passo per la conduzione della vita contadina. Stanno tornando in auge i macerati per la difesa delle piante, rimedi semplici e naturali, per lungo tempo snobbati e criticati ed erroneamente considerati in bilico tra conoscenze scientifiche, tradizione e stregoneria. Fin dal XVI secolo preserva i vini nelle nostre bottiglie. Dopo la puntata sui vizi, oggi si parla delle virtù indiscusse del tappo di sughero. Non sono solo bacche ornamentali, cinorrodi della rosa canina, nonostante il loro nome friulano di Picecui, sono ottimi per preparati come una mostarda da abbinare ai lessi o ai formaggi stagionati. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Seconda puntata oggi, perché l'argomento è di strettissima attualità, con Costantino Cattivello, per capire come il cambiamento climatico abbia ripercussioni anche sui nostri orti di casa, tra nuove specie che possiamo coltivare e certe che dovremo abbandonare. Se nei mari nostrani sono sempre più frequenti gli avvistamenti di pesci tipici dei clima caldi, qualcosa di analogo sta avvenendo anche nelle specie coltivate in orto. Come avevo accennato la volta scorsa, in molti casi riusciremo a coltivare e raccogliere le orticole che conosciamo per un tempo molto più lungo. Oltre a questo sarà usuale ormai coltivare e consumare specie nuove, complice sia il cambiamento climatico sia i flussi migratori provenienti in larga parte dal sud del mondo. Quali sono queste specie nuove con cui dovremmo familiarizzare, diciamo così? Ma ce ne sono diverse, farei tre esempi. La prima di queste specie a fare capolino in Italia è stata l'ocra o gombo. È una specie che proviene dall'Africa tropicale ed è molto usata dai popoli che vivono nella fascia intertropicale. Si consuma il frutto immaturo della lunghezza di 8-10 cm, di polpa gelatinosa e di colore verde o violaceo, saltato in padella o cotto al vapore. Al giorno d'oggi la quasi totalità della produzione italiana si fa in Sicilia, anche se prove pluriennali condotte dall'ERSA, anche oggetto di tesi, hanno confermato la buona adattabilità e produttività anche alle nostre latitudini. Da noi si semina o trapianta a maggio e si inizia a raccogliere ogni uno o due giorni dopo un mese dal trapianto per tutta l'estate. Una seconda specie che sta diventando una presenza comune e proviene dalle aree subtropicali è la patata dolce, conosciuta anche col nome di batata. E va detto che al di là del nome non ha molto in comune con la patata comune, se non per il fatto che il prodotto commestibile è un organo sotterraneo, ovvero in questo caso una radice, non un tubero. La patata dolce appartiene a una famiglia botanica diversa dalla patata, questo è un aspetto interessante, e pertanto non è appetita dalla dorifora. Si trapianta a maggio e si raccoglie a ottobre. Ha la stessa produttività della patata e dal momento non ha parassiti di sorta. Si consuma come la patata comune, ma rispetto a questa ha un contenuto in sali minerali superiori e non provoca picchi glicemici quando consumata. Infine, un terzo esempio è rappresentato da un insieme di ortaggi da foglia che ci arrivano dall'estremo oriente, noti in inglese con il termine di Oriental Greens. Si tratta di specie come la Mizuna, Tazoi, Komatsuna. Si coltivano, raccolgono e consumano quando le piantine sono alte 8-10 cm, al pari del comune radicchietto o lattughino, ma danno un tocco di sapore unico alle nostre misticanze. Sono specie che consiglio di provare perché facili da coltivare, con un ciclo corto e i cui semi si possono trovare nelle agrarie più fornite. Ma queste specie di cui ho parlato hanno un mercato? Certamente, grazie ai nuovi cittadini, che le richiedono, ai nuovi stili di vita, e sia perché nel caso delle Oriental Greens, di cui ho appena parlato, già le stiamo consumando in quanto vendute in buste già tagliate, lavate e pronte al consumo. Santo veramente particolare San Martino anche per la gente dei campi. Non solo si portava dietro la sua piccola estate, ultima consolazione prima dei rigori dell'inverno, ma segnava un cambio di passo nella conduzione della casa e della famiglia contadina. Sempre che non si dovesse fare San Martino, ovvero il cambio di proprietari per affittuari e mezzadri. Oggi Angelo Floramo ci racconta come cambiassero i ritmi del vivere in campagna. Era questo il tempo dell'anno in cui il lavoro nei campi cominciava a diminuire, come se la terra stessa sentisse la necessità di riposare dopo l'intensa fatica dell'estate. Le ore sempre più povere di luce, il rigore della stagione ormai avanzata, inducevano la famiglia contadina a raccogliersi dentro agli spazi domestici, dove le mansioni da sbrigare non mancavano di certo. La stalla doveva essere tenuta pulita, le bestie rigovernate. La geografia della casa colonica si srotolava nelle sue topografie odorose, destinate alla cura di mani diverse, ciascuna con la sua sapienza e dottrina. Le mele che occupavano il pavimento del solaio andavano rigirate, i sacchi con le castagne rassettati, la pancia del granaio, il chiast, piena di pannocchie o altre granaglie, tenuta d'occhio perché non facesse troppo gola ai topi, e il fienile, toglaat, pettinato spesso a colpi di forca, per tenere lontana l'umidità. Mille erano le occupazioni da svolgere sotto tetto: rimettere a posto gli strumenti del lavoro a forza di pialla e di scalpello, perché il tempo sarebbe girato nel suo inesorabile cerchio e la campagna, prima o poi, avrebbe di nuovo reclamato di essere accudita. Andavano preparate le brode per il porco e il pastone per il pollame. C'era pur sempre legna da tagliare, fin quando il bosco lo permetteva, e da riporre nella legnaia. Le mani delle donne avevano la sapienza dell'ago e del filo, e quindi ricucivano, rattoppavano o sferruzzavano ad imbastire calzette e cuffie di lana. Quelle dei vecchi intrecciavano giunchi a realizzare ceste, cestini, fiasche, gerle e tutto ciò che poteva essere di qualche utilità nell'ancestrale opera della raccolta, quando ne fosse sopraggiunto il momento. La corte, quello spazio ibrido in cui cultura e natura convivevano intrecciandosi assieme, andava rammazzata e rastrellata, raccogliendo le foglie e portando a spasso le oche, compito spesso lasciato ai più piccoli, che non erano certo esenti dalle mansioni alla loro portata. La sera ci si ritrovava nel luogo più tiepido e accogliente della casa, la stalla. Qui ognuno continuava a fare il suo, sgranando pannocchie o rattoppando calzoni, mentre chi sapeva raccontava storie capaci di evocare spiriti e demoni che avrebbero tolto il sonno. Il calendario segnava il tempo del santo, quel Martino che, si diceva, avesse tanto a cuore i poveri da dividere con loro il mantello. Chi meglio di lui, dunque, avrebbe potuto scandire i giorni più bui che bussavano sui vetri con la voce della tramontana? La difesa delle piante non solo dà frutto, anche rimedi semplici, testati negli anni, ma snobbati ultimamente in certi ambienti. Stiamo parlando, o meglio, il professor Raffaele Testolin ci parlerà dei macerati. Molti amici che non vogliono usare prodotti chimici di sintesi per la difesa delle colture mi chiedono cosa penso dei macerati vegetali. Il mondo dei macerati spazia dalle conoscenze scientifiche alla tradizione alla stregoneria. Non sono un esperto, ma qualche consiglio mi sento di darlo su alcuni macerati di discreta efficacia. Spesso hanno più un effetto repellente che insetticida, il che non è male perché non disturbano più di tanto i predatori che sono utili alleati. I macerati si possono acquistare sul mercato, sono fatti bene e il loro effetto ha una durata maggiore di quelli fatti in casa. Ma possiamo certamente preparare i macerati da soli e risparmiare. Raccogliete le foglie o il frutto, nel caso per esempio del macerato di peperoncino, sminuzzatele grossolanamente e mettetele in un contenitore di plastica o vetro, aggiungete dell'acqua. Quella del sindaco o l'acqua deionizzata acquistata in negozio vanno bene. Evitate invece l'acqua del rubinetto, che è spesso calcarea e clorata e può ridurre l'efficacia del macerato. Non chiudete il contenitore, ma appoggiate sopra una retina. La circolazione dell'aria favorisce il processo di macerazione. Mescolate un paio di volte al giorno. A distanza di 7-8 giorni il prodotto è pronto. Filtratelo e spruzzatelo sulle piante. Ed ora le specie. Il macerato di ortica e di equiseto o erba cavallina sono certamente i più popolari e si equivalgono. Vengono usati per tenere lontane formiche, afidi, acari, cocciniglie, ragno rosso, la mosca delle ciliegie e dell'olivo e qualche altro insetto. Controllano un po' oidio e peronospora, ma non sempre funzionano bene contro queste malattie fungine. La felce si usa contro afidi e cocciniglie, ma la sua efficacia è minore di quella dell'ortica, mentre può funzionare contro le ruggini. E veniamo al macerato d'aglio, considerato da alcuni uno dei più interessanti. Controlla un ampio spettro di insetti e funghi patogeni. Tra gli insetti è spesso efficace contro afidi, acari, cocciniglie e alcune mosche, mentre tra i funghi controlla oidi e alcune peronospore. Qualche testo lo riporta efficace anche contro le batteriosi, ma in tal caso i trattamenti devono essere molto frequenti. Interessanti sono anche i macerati di peperoncino e di pomodoro, che oltre a controllare i soliti afidi, acari e cocciniglie, sono un buon repellente nei confronti di larve di cimici, lepidotteri e cocciniglie. Si possono macerare più essenze assieme, per esempio ortica e felce, aglio e peperoncino e così via. L'effetto è sinergico. Infine, tutti i macerati distribuiti sulle piante coltivate contribuiscono alla nutrizione delle stesse, essendo ricchi di microelementi, silicio, potassio, magnesio, eccetera. Un solo avvertimento. Evitate di trattare in prossimità della fioritura, perché i macerati potrebbero allontanare anche le api e gli altri pronubi necessari per l'impollinazione. Al solito, buona fortuna. La scorsa puntata, per la rubrica dei sommelier, Vladimiro Tulisso, che c'è la cura, ci aveva parlato dei pericoli potenziali del tappo in sughero. Oggi rendiamo onore al sughero, però, che continua ad essere una delle tappature più prestigiose. Abbiamo parlato dei rischi connessi alla tappatura delle bottiglie di vino con il sughero. Si stima che tra l'1 e il 10% delle bottiglie tappate con sughero presentano sentore di tappo, quindi un danno importante. Basterebbe quindi questa percentuale per spingere i produttori a cambiare il metodo di chiusura delle bottiglie. Ma il sughero resiste da secoli. Perché tutta questa predilezione? Il tappo di sughero ha molte caratteristiche favorevoli. È leggero, pulito, quasi perfettamente impermeabile, non subisce gli effetti della temperatura e marcisce molto lentamente. E poi è perfettamente liscio e si adatta al collo della bottiglia grazie alla sua straordinaria elasticità. Le tappatrici sono in grado di stringerlo quanto basta per inserirlo nel collo della bottiglia, dove il sughero si espande immediatamente occupando tutto lo spazio. Continua ad allargarsi anche nei giorni successivi, tanto che i vignaioli più attenti, dopo la tappatura, lasciano le bottiglie per qualche tempo in verticale proprio per permettere al tappo di distendersi completamente prima di portarlo a contatto con il vino o mettendo in orizzontale la bottiglia. Il sughero era già utilizzato dai romani per sigillare le anfore, ma poi era andato in disuso. Nei dipinti medievali si notano le bottiglie, che allora si utilizzavano solo per servire il vino a tavola e non per conservarlo e tantomeno commercializzarlo, chiuse con dei panni attorcigliati o della pelle. I tappi di sughero sono tornati protagonisti dalla prima metà del XVI secolo, quando in Europa iniziarono a diffondersi modelli di bottiglie più spesse, pesanti e robuste delle precedenti. Il merito fu di un inglese, Sir Digby, un alchimista con precedenti per pirateria, che iniziò a utilizzare il carbone per alimentare i forni di cottura. Il nuovo combustibile permetteva di raggiungere temperature più elevate e bottiglie più robuste. Possiamo considerare Sir Digby il padre della bottiglia moderna, dotata di un lungo collo che termina con uno spessore, allora utile a fermare lo spago al quale era legato il tappo, ovviamente di sughero. Argomento raro e raffinato quello che ci propone oggi Michela Urbano nella sua rubrica della conservazione, una mostarda di Picecuy, ovvero i cinorro di Della Rosa Canina. L'autunno è la stagione ideale per raccogliere i falsi frutti della rosa canina, i cinorrodi. È facile individuare gli arbusti di rosa canina, innanzitutto perché sono diffusi su tutto il territorio regionale. I suoi arbusti prediligono gli ambienti aridi, i margini delle strade di campagna, le boscaglie e i pendii assolati. La raccolta è tradizionalmente consigliata dopo la prima gelata, affinché il freddo agevoli la rottura della membrana cellulare dei cinorrodi, permettendo così di attingere alle loro molteplici proprietà benefiche. Mi sento di raccomandarvi la massima attenzione nel raccogliere cinorrodi sani e integri, turgidi, anche se leggermente più aspri nel gusto. Una volta raccolti, i cinorrodi vanno divisi a metà e privati dei frutti e peluria interna. Per questa operazione vi consiglio di utilizzare dei guanti. La peluria, sebbene non sia velenosa l'ingestione, è piuttosto urticante per tutte le mucose. I suoi tanti nomi popolari, come Picecuy, Spicecul o Forecul, la dicono lunga su questo effetto poco desiderato. Con i cinorrodi ben puliti e lavati potrete sbizzarrirvi in molteplici preparazioni come confetture, marmellate, melliti, infusi, decotti e fermentazioni. Attenzione però, sebbene il cinorrodo delle rose, sì, non solo quello della rosa canina, sia famoso per l'altissimo contenuto di vitamina C, questa, oltre ad essere idrosolubile, è particolarmente termolabile. Pertanto, se oltrepasserete la soglia dei 36 gradi centigradi, svanirà. Non disperate, esistono ben altre 129 proprietà che giustificano il valore e quindi la raccolta di questo dono della natura. Oggi vi lascio una ricetta speciale, dono dell'amica Isabella De Crignis, nota rifugista che per ben 36 stagioni ha gestito assieme al marito il rifugio Pelizzo sul Monte Matajur, la mostarda di Picecuy. Raccogliete 300 g di cinorrodi di rosa canina, in una pentola capiente portate a bollore 250 ml di vino bianco con 50 ml di aceto di susine, 150 g di zucchero, 150 di succo di uva americana, una stecca di cannella, 8 chiodi di garofano, una piccola cipolla, un spicchio di aglio di resia, 2 mele cotogne con la buccia, 8 bacche di ginepro, 4 foglie di alloro, la scorza di un limone, un cucchiaino di senape in polvere, timo selvatico e basilico, sale quanto basta. Fate ridurre e passate al setaccio. Aggiungete i Picecuy puliti e portati a cottura. Passate al pasta e verdura per ottenere una purea. Invasate e pastorizzate a 90 gradi centigradi per 25 minuti. Isabella serve la sua mostarda con il lesso e formaggi invecchiati. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo con prezzi sostenuti. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole del Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 21,30 euro al quintale, IVA esclusa, il frumento tra 20,20 e 50, l'orzo peso specifico 62,65 tra 19,20 e 19,70 e la soia tra 43,43 e 50. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 14 euro il quintale e la soia di 19. Carenti le contrattazioni dell'ortofrutticolo di Udine con prezzi leggermente in rialzo. L'insalata gentile viene quotata tra 1,80 e 2,20 euro al chilo IVA esclusa, la lattuga trocadero tra 1,30 e 1,50, i finocchi tra 1,50 e 1,80, la scarola riccia tra 2,80 e 3 euro, gli spinaci da 2,40 a 2,60, i cavoli tra 1,80 e 2 euro, il radicchio rosso tondo e quello di Treviso precoce da 1,50 a 1,80, le patate da 0,75 a 0,85, le clementine italiane da 2,60, l'uva da 3 a 3,50 e le castagne da 4,50 a 5 euro il chilo. Attività proficua nel settore della pesca per le condizioni meteo favorevoli e i prezzi sono in leggero ribasso. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 10 a 22 euro il chilo IVA esclusa. Le orate da 4 a 16, le canoce da 3 a 8, i latterini da 5 a 8, i palombi da 4 a 11, mazzancolle da 8 ai 18, le seppie da 7 a 10, i calamari da 11 a 15 e le anguille da 18 a 22 euro al chilo. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine ha determinato il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo ancora in ribasso tra 48 e 50 e 50 e 50 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Prezzi stagnanti nel comparto dei foraggi, con un lieve calo per l'abbondanza di prodotto. L'erba medica viene quotata tra 15 e 16 e 50 euro al quintale, IVA esclusa. Il fieno mazengo di pianura si paga tra 11 e 12 euro e la paglia di cereali pressata si quota fra 8 e 10 euro al quintale. Infine, ancora accenni di pesantezza con prezzi diversificati nel settore degli avicunicoli. Il valore dei poli a terra varia da 1,37 a 1,39 euro al chilo IVA esclusa, le anatre da 3,41 a 3,45, i tacchini maschi da 1,70 a 1,72, le faraone da 3,70 a 3,80, i conigli oltre 2 kg e mezzo da 2,95 a 3,01 e le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA, Livio Stefanutto, diamo uno sguardo al tempo che farà la settimana entrante. In quest'ultima settimana l'episodio di rilievo più importante si è verificato tra sabato e domenica scorsi, quando un fronte piuttosto deciso ha interessato la regione. Sono caduti fino a 93 mm di pioggia sulle Prealpi Giulie e sulla zona del Canin e ha soffiato vento forte, con raffiche fino a 144 km/h sul Matajur. Ma la zona che è stata più colpita è stata la costa, dove sono stati registrati fino a 92 km/h di vento da sud a grado e dove l'alta marea eccezionale, accentuata da una forte bassa pressione e dal vento meridionale, ha raggiunto i 171 cm, allagando nuovamente molte zone costiere. L'entrata di aria molto fredda in quota ha quindi posto termine al lungo periodo di temperature sopra media ed in montagna la neve è caduta fin sotto gli 800 metri di quota nel Tarvisiano. Poi si sono succeduti alcuni giorni di variabilità e di instabilità. Ora una rimonta anticiclonica sulla Spagna sta spingendo sull'Italia aria più mite in quota, ma ancora a tratti umida. Nei prossimi giorni il cielo sarà prevalentemente variabile, con foschio e nebbia in pianura, e nella notte tra martedì e mercoledì potranno verificarsi delle piogge, in genere moderate. Nelle valli avremo inversione termica, con temperature più miti in quota che a fondovalle. In pianura le temperature oscilleranno tra i più 2 del mattino e i più 14 del pomeriggio, ma in qualche zona non si escludono minime notturne prossime a zero. Tra mercoledì e giovedì avremo tempo bello e stabile, con temperature in aumento, ma venerdì e per l'intero fine settimana dovrebbe giungere una massa d'aria fredda dal nord Europa, che porterà a un nuovo calo termico a tutte le quote. Potrà esserci anche dell'instabilità, con qualche rovescio temporale e neve fino a fondovalle. Tra sabato e domenica e l'inizio della settimana successiva, in pianura potremo avere anche le prime gelate. Come sempre, vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Buona domenica! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi ad un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Si roche tra montagne men in vine pan, buere e garbine men in pane vin, ovvero i venti di scirocco e tramontana portano vino e pane, bora e libeccio portano pane e vino, tutti e quattro dunque sono propizi. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.